Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cosa poté oscurare le menti, serrare i cuori, cancellare, tracciandovi sopra una svastica, progressi, conquiste e valori secolari? Le risposte sono, e sono state tante, aiutano la nostra comprensione del fenomeno, ma nessuna, credo, possa riuscire a sciogliere pienamente interrogativi così inquietanti. La realtà dei campi di sterminio va oltre l'umana comprensione e oltre i limiti delle possibilità di espressione. Già, eppure è successo, così ha parlato Mattarella oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, in occasione del giorno della memoria, ricordando la Shoah. Ne parleremo durante il riassunto della giornata, poi ci saranno molti temi come al solito qui Effetto Notte in quest'ultimo giorno della settimana, essendo appunto venerdì ci sarà il bilancio della politica italiana della settimana, ce ne sono di fatti, dalla decisione della Consulta sull'Italicum a quello che sta succedendo ancora nella giunta romana e poi questo braccio di ferro che continua tra l'Italia e Bruxelles sui conti pubblici. Faremo anche un bilancio un po' complesso anche dell'attività frenetica di Trump, che neanche una settimana che si è insediato, insomma, ha firmato decreti, ha bloccato qui, ha sbloccato di là, adesso oggi ha incontrato la prima ministra britannica Theresa May, ha detto fortissima alleanza, insieme possiamo ridare prosperità ai nostri popoli. Poi ci sarà il meteo, mille altre cose. Per i vostri messaggi, le vostre osservazioni, le vostre interazioni, insomma, qui con Effetto Notte, ormai lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666. Vediamo intanto che giornata è stata. Conti pubblici, Gentiloni sottolinea rispetto delle regole europee, ma no a manovre depressive. Bruxelles replica, aspettiamo impegni precisi. Il vertice tra Donald Trump e Theresa May, ridiamo prosperità ai nostri popoli, dichiarano il presidente americano e la prima ministra britannica. Roma, la sindaca Raggi polemizza con la stampa, raccontate la verità, inventare non si fa, e smentisce sul blog di Grillo le indiscrezioni circa un suo patteggiamento preventivo con i giudici. Sul bilancio del comune pesano i dubbi dell'OREF. Il giorno della memoria, il presidente Mattarella avverte, non abbassiamo la guardia contro l'intolleranza. Russia, picchiare la moglie non sarà più reato, ha approvato un progetto di legge che depenalizza i maltrattamenti in famiglia. L'ennesimo femminicidio in Italia, a Parma lei non vuole tornare con il suo ex e lui la uccide e poi si suicida. L'emergenza in centro Italia, si dimette il vicepresidente della commissione Grandi Rischi in contrasto con il presidente che aveva parlato di un rischio Vajont sulle dighe. Lavoro, nel 2016 aumento delle retribuzioni dello 0,6%, al minimo da 34 anni, cala la fiducia dei consumatori a gennaio. Sport, tennis, Nadal e Federer in finale agli Australian Open, la sfida dei sogni. Partiamo quindi dal costante tira e molla, dicevamo, braccio di ferro tra Italia e Bruxelles sui conti pubblici. Il ministro Padoan all'Unione Europea ha detto per l'Italia è stato un anno difficile, non si può fingere che non sia successo nulla, una procedura di infrazione per l'Italia certo sarebbe un grave problema. Risorse per il sisma e tenuta dei conti pubblici viaggiano su due binari separati, fa capire il ministro dell'economia Padoan a margine dei lavori dell'Ecofin. Stanzieremo le risorse necessarie già la prossima settimana, assicura il responsabile del tesoro. Quindi questo indipendentemente da come si fronteggia, si risponderà alla richiesta della Commissione di effettuare un aggiustamento. Padoan conferma quindi che le risposte all'Europa sugli aggiustamenti di bilancio arriveranno comunque entro il 1 febbraio, poi avverte. Una procedura di infrazione sarebbe un grosso problema per l'Italia in termini di reputazione che in questo periodo recente ha rafforzato e costruito. Una risposta questa del ministro dell'economia, chi in Parlamento dice no ad una manovra correttiva auspicando invece un braccio di ferro con l'Europa. Proprio dalla Commissione intanto il vicepresidente Dombrovskis ricorda, ci aspettiamo che l'Italia prenda impegni chiari nella lettera con cui risponderà all'Unione Europea. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel tardo pomeriggio, in serata, c'è stato l'intervento anche del presidente del Consiglio Gentiloni, che ha detto concordiamo con rispetto delle regole europee, ma no a manovre depressive. Sentiamo il commento di Guido Gentili. Quando il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, osserva che una procedura di infrazione decretata da Bruxelles per debito eccessivo sarebbe un problema per l'Italia in termini di reputazione sui mercati, coglie il problema dei problemi che il nostro paese ha di fronte. Il governo di Roma sta trattando per evitare una manovra di correzione per i conti del 2017 che l'Europa cifra in circa 3,4 miliardi, ma è chiaro che non può permettersi scivoloni dal lato del debito che Bruxelles, al contrario del governo italiano, vede in crescita al 133,1% nel 2017 e nel 2018. Roma ha peraltro scelto da tempo di rispettare il patto di stabilità. All'inizio il governo Renzi aveva lanciato segnali diversi, poi era rientrato rapidamente nel solco tracciato da Bruxelles e dai suoi azionisti di riferimento, Germania e Francia. Oggi il nuovo premier Paolo Gentiloni si trova nella scomoda posizione di dover gestire nel 2017 una breve o lunga stagione preelettorale, avendo la necessità di rafforzare la ripresa e insieme di proteggere la reputazione dell'Italia sui mercati. È un sentiero molto stretto e bisogna evitare passi falsi in un senso o nell'altro. Diciamo la verità, Gentiloni è atteso a un miracolo politico prima ancora che economico. E oggi c'è stato il vertice tra Donald Trump e Theresa May, la premier britannica, che è stato il primo capo di governo a fare questo incontro con Trump. Lo ha appunto incontrato a Washington il presidente americano. Entrambi hanno scommesso su una rinnovata alleanza transatlantica, in grado, hanno detto, di guidare il mondo, e concordano sulla volontà, come hanno detto, di ridare prosperità ai nostri popoli. Domani la prima conversazione telefonica tra il neopresidente americano con Putin e la cancelliera Merkel. Trump oggi ha avuto una lunga telefonata, tra l'altro, col presidente messicano sul muro, ma resta su questo punto decisamente divisione tra i due presidenti. Poi ne parleremo. Adesso andiamo invece a Roma. Lunedì prossimo la sindaca Raggi sarà interrogata dai magistrati nell'ambito dell'indagine sulla nomina del fratello dell'ex braccio destro Raffaele Marra, ma si aggiunge la questione dei conti del comune. Il comune di Roma è a rischio perché l'equilibrio dei conti è precario. A lanciare l'allarme è l'OREF, l'organo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio, che dà parere favorevole ai conti, ma durante la seduta del Consiglio Comunale sulla manovra economica invita gli uffici a collaborare e a comunicare fra loro. È vero che il bilancio presenta un equilibrio, spiega, ma passività potenziali, partecipate e contenzioso fuori controllo potrebbero creare problemi, quindi è fondamentale il coordinamento fra gli uffici. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si prepara intanto per l'interrogatorio dei PM di Roma che indagano sulle nomine. In agenda il 30 gennaio. Non c'è alcuna trattativa con la procura, scrive la sindaca su Facebook, smentendo indiscrezioni stampa e ipotesi di patteggiamento tra i suoi avvocati e magistrati romani. Lunedì prossimo Raggi sarà interrogata dai pubblici ministeri che indagano sulla nomina a capo del Dipartimento Turismo del Comune di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele Marra, poi arrestato per corruzione. I magistrati contestano la sindaca reati di abuso di ufficio in concorso con Raffaele Marra e falso. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A gennaio cala la fiducia dei consumatori, ma sale quella delle imprese. Appesantita dalle opinioni sul clima economico attuale e su quello futuro, in Italia peggiora a gennaio la fiducia dei consumatori rilevata dall'Istat e nel bilancio che misura mese per mese le aspettative degli italiani verso il futuro, risale la fiducia delle imprese con progressi in tutti i settori tranne il commercio al dettaglio. Questi numeri, il clima di fiducia dei consumatori scende infatti da 110,9 a 108,8 punti, mantenendosi comunque su un livello superiore a quello di novembre 2016. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese invece aumenta da 100,2 a 102,5. Bene il settore manifatturiero, bene le costruzioni e i servizi, ma in controtendenza il calo del commercio al dettaglio, nonostante gennaio sia un mese chiave per i saldi. E per la prima volta dall'inizio della crisi, a gennaio 2017, le opinioni dei consumatori sul proprio bilancio familiare tornano a livello del 2007, quello di 10 anni fa. E infine, sulla situazione economica del paese, i giudizi in crescita di dicembre si trasformano in deciso peggioramento a gennaio. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Quanto poi alle retribuzioni, nel 2016 la retribuzione oraria è cresciuta in media dello 0,6% rispetto all'anno precedente, segnando in questo modo l'aumento più basso mai registrato dall'Istat in almeno 34 anni. E siamo al giorno della memoria. Oggi l'Italia ha ricordato le vittime della Shoah. Mattarella avverte: il germe dell'intolleranza è ancora vivo. La realtà dei campi di sterminio va oltre l'umana comprensione e oltre i limiti delle possibilità di espressione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra la giornata della memoria al Quirinale. A 72 anni dall'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, i ragazzi delle scuole che si sono recati nel campo di sterminio nazista vengono ricevuti dal Capo dello Stato. 6 milioni in totale gli ebrei uccisi, 1,5 milioni solo a Birkenau. Ma l'antisemitismo è tornato a crescere in Europa, così Mattarella. E ancora oggi dobbiamo chiederci com'è possibile che sotto forme diverse, che vanno dal negazionismo alla xenofobia, all'antisionismo, razzismi vecchi e nuovi, si sparga e si propaghi il germe dell'intolleranza. Preoccupazione anche tra le comunità ebraiche europee. La presidente delle Unioni delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni. Oggi l'antisemitismo può essere mascherato in tanti altri modi, da boicottaggio, da anti-israelianismo, da antisionismo. E Mattarella ricorda anche i 650.000 militari italiani deportati nei campi di concentramento tedeschi perché dopo l'8 settembre si rifiutarono di servire Hitler. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero, con la Russia, dove picchiare la moglie non sarà più reato, la Duma, il Parlamento russo, ha approvato in via definitiva il progetto di legge che depenalizza la violenza in famiglia. Se l'aggressione non è reiterata e non provoca danni alla salute, non sarà reato penale, prevista giusto una multa di 500 euro. Nel paese, pensate, in Russia, sono state 14.000 le donne uccise in un anno. 14.000. E da lì questa, quindi, la mentalità depenalizzando, no, che crea terreno fertile perché continuino questi omicidi. In Italia anche si prosegue, c'è l'ennesimo femminicidio, questa volta a Parma. Lei, Arianna Rivara, 44 anni, fra un mese li avrebbe compiuti, non voleva tornare col suo ex Paolo Cocconi, di 50 anni, ma ha accettato un appuntamento chiarificatore dopo che a luglio la storia fra i due si era conclusa e lui, davanti al suo no, l'ha uccisa e poi si è suicidato. Quindi mai, tra le altre cose, si è detto mille volte, andare a questi ultimi appuntamenti chiarificatori. Tra l'altro c'è un sondaggio di SVG che dice che cala, e non di poco, nell'opinione pubblica l'allarme sociale sul fenomeno del femminicidio, sebbene la cronaca segnali continuamente nuovi casi, e qui effetto notte non facciamo difetto, non ultimo quello oggi di Parma. A distanza di un anno circa, la percentuale di italiani che avverte come un'emergenza l'uccisione o le violenze contro le donne da parte dei partner è scesa di 10 punti, dall'82% al 72%, la sensibilità e la percezione. A lanciare l'allarme su questo raffreddamento degli italiani nei confronti di questa barbarie, appunto, l'Istituto SVG, che ha realizzato una rilevazione tra il 16 e il 18 gennaio 2017, quindi pochi giorni fa, su un campione di 1500 persone. E queste cose purtroppo la dicono lunga. Terremoti, una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata dalla rete dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia nella zona dell'Aquila, a 23 km a nord del capoluogo, alle 15.20, oggi a una profondità di 12 km. L'epicentro è stato localizzato a 3 km da Campo Tosto, vicino all'Aquila. La scossa è stata sentita distintamente dalla popolazione anche all'Aquila città. E si è dimesso il vicepresidente della Commissione Grandi Rischi, Gabriele Scarascia Mugnozza. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, il contrasto con il presidente Sergio Bertolucci dopo le sue dichiarazioni di giorni fa, vi ricordate, quando ha parlato di un effetto Vaillant per la diga di Campo Tosto in Abruzzo in caso di una nuova forte scossa di terremoto. E con fronte di demissioni invece c'è una nomina: Luciana Lamorgese, la nuova prefetta di Milano, la prima volta di una donna che guida gli uffici di Corso Monforte. Lamorgese, capo di gabinetto del ministro dell'interno, prima con Angelino Alfano, quindi con Minniti, subentra ad Alessandro Marangoni in pensione dallo scorso dicembre. Sanità, arriva il prezzo unico nazionale di aghi e siringhe, simbolo da sempre della spending review della sanità. In base alla gara Consip appena chiusa, la siringa comune per iniezioni costerà in tutta Italia da 4,9 centesimi a 6,3 centesimi con un ribasso del 70% rispetto al prezzo base d'asta. E poi parliamo anche di questa manifestazione del SICOBAS, di questa sigla sindacale che si è tenuta davanti al carcere Sant'Anna di Modena oggi, dove da ieri si trovano il dirigente del sindacato Aldo Milani e il rappresentante di una società di intermediazione con i sindacati, arrestati a Castelnuovo Rangone per estorsione ai danni della famiglia Levoni, leader nella lavorazione delle carni. Un video li inchioda, questi sindacalisti, mentre intascano del denaro ricevuto, secondo l'accusa, per evitare altre proteste in azienda. E per chiudere, lo sport col tennis: la finale degli Australian Open 2017 di domenica prossima sarà la 35esima sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal. Saranno loro a giocare in Australia il primo Major 2017 in una sfida infinita iniziata nel marzo 2004. Tutti a guardare a Melbourne per la sfida più sperata e più in attesa. Due redivivi del grande tennis, Federer, il reincontrastato, precipitato al numero 17 del mondo a causa dello stop per infortunio che l'ha tenuto bloccato per 6 mesi e che torna ad inseguire il 18° slam della carriera. E Rafa Nadal che altrettanto sparito dagli slam negli ultimi 2 stagioni torna protagonista dopo la vittoria in 5-7 su Dimitrov, mentre Federer ha battuto sempre in 5-7 l'altro svizzero Wawrinka. Eccoli quindi nella finale dei sogni, sarà la 9ª volta che si affronteranno nella finale di uno slam. Il bilancio è tutto favorevole allo spagnolo, 8-2, ma davvero Melbourne che ci ha regalato la finale più imprevedibile, vuoi che possa essere prevista proprio nel suo esito finale? Godiamoci lo spettacolo e che vinca il tennis. E con il tennis chiuderei questa prima parte di riassunto della giornata, poi lo sapete tra poco c'è la viabilità e poi cominciamo ad approfondire alcuni temi a partire dalla politica. Stasera, essendo l'ultima puntata della settimana di Effetto Notte, vedo che c'è un passaggio repentino nei messaggi vostri tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, dalla geopolitica al tennis. C'è chi dice forza Nadal e c'è chi dice forza Donald. Poi parleremo sicuramente anche di Donald più tardi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, le notizie più importanti le avete sentite, ve le ho prima raccontate in un riassunto, come sempre all'inizio di Effetto Notte, Roberta Giordano sempre con voi. E poi ve le ricordo di tanto in tanto le notizie principali, i fatti in primo piano, voi però accendete puntualmente tutte le sere dalle 21 e siamo insieme sino alle 22 in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo, perché qui vi aggiorno e vi do un quadro esauriente della giornata a fine giornata per l'appunto. Tra poco, dicevo, faremo il bilancio della politica della settimana, come sempre il venerdì. I vostri messaggi intanto tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. C'è chi parla, dice come mai l'Europa, dice Carlo da Pavia, come mai l'Europa ci impone il rispetto del Fiscal Pact, che sarebbe il Fiscal Compact, e non chiede mai l'eliminazione di sprechi come auto blu, consulenze esterne, indennità, accessori, aziende, eccetera eccetera. Ma adesso cercheremo di capirlo tra poco con la nostra commentatrice politica. Intanto vi ricordo quali sono i titoli principali. Questo braccio di ferro che continua tra l'Italia e l'Unione Europea sui conti pubblici, con Padoan che dice che l'importante è cercare di evitare questa procedura di infrazione, e Gentiloni che dice d'accordo, rispettiamo le regole europee ma senza manovre depressive. E poi per quanto riguarda la giunta romana, Raggi rischia anche il danno erariale, si parla di precarietà nei conti del Romani, ma l'assessore al bilancio dice in realtà non c'è nessuna precarietà, tutto in ordine. E tra l'altro la sindaca sarà sentita lunedì dai PM a proposito dell'inchiesta che la coinvolge. Passo indietro di Trump sulla tortura, dice, decide il segretario alla difesa. Poi oggi ha incontrato la prima ministra May e domani ci sarà una telefonata con Putin e anche con Merkel. Intanto attacca il Messico sempre sulla costruzione del muro. Intanto c'è bagarre sull'Italicum, sul voto, sulle possibili modifiche. Pisapia che dice stop a un listone con tutti dentro, con i centristi e con il PD. Insomma, tra pochissimo ne parleremo di questo dibattito scaturito dalla decisione della consulta sull'Italicum. E poi oggi il giorno della memoria in cui si ricorda la Shoah, celebrazioni in tutta Italia. Mattarella dice bisogna contrastare il germe dell'intolleranza che rischia sempre di rispuntare fuori. E poi in Russia picchiare la moglie e anche i figli non sarà più reato, lo ha deciso la Duma, questo grande passo di civiltà. E poi in Italia, tanto per gradire, un uomo a Parma uccide la ex compagna che non voleva tornare con lui. E poi dopo Rigopiano, la tragedia di Rigopiano, le province in rivolta, per il presidente dell'UPI e 13 presidenti del Centro Italia, ora servono tra i 4 e i 500 milioni, c'è sempre questa polemica sull'abolizione parziale delle province. Ed è drammatico se dobbiamo stare ad aspettare che un sindaco o una sindaca può fare il sindaco solo se la magistratura si sta a posto suo, perché appena arriva la magistratura poi questo si deve togliere, si deve mettere. Non è un paese normale, uno nel quale ogni decisione debba essere presa aspettando che qualche altro organismo decida se tu sei legittimato o non legittimato a fare le cose. È gravissimo questo. Questo Monsignor Galantino, ieri segretario generale della CEI, perché anche i vescovi sono intervenuti sulla decisione della Consulta a proposito dell'Italicum, dice insomma non è normale un paese dove la magistratura debba fare il mestiere che dovrebbe essere della politica, la politica rifletta sui propri errori. Qualcuno ha detto insomma l'ingerenza dei vescovi che c'entrano, comunque insomma dicono la loro, si può condividere o meno, ma certamente diciamo che non è molto lusinghiero per la politica italiana, e lo sappiamo che spesso su molti temi insomma latita e alla fine è la magistratura che deve decidere. Questo nel bilancio politico della settimana, della politica italiana di questa settimana. Diciamo che i temi dominanti sono stati appunto la decisione della Consulta sull'Italicum con le conseguenti reazioni politiche, i nuovi guai per la giunta romana e in specie per la sindaca Raggi, e l'infinito tira e molla sui conti pubblici tra Italia e Bruxelles. Cominciamo, intanto saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Dal pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge elettorale, cosiddetta Italicum, la Consulta allora ha formalmente mantenuto l'impianto maggioritario ma ha bocciato il ballottaggio e le candidature plurime dei capilista. Quindi, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, la legge è formalmente maggioritaria ma sostanzialmente proporzionale, comunque si è detto immediatamente utilizzabile. Sì, immediatamente utilizzabile, però resta il problema della difformità, non omogeneità tra il sistema elettorale della Camera e quello del Senato. Quali sono state le reazioni politiche di questi giorni? Allora, diciamo, in sintesi, Grillo, Renzi e Salvini hanno chiesto immediatamente di andare al voto, mentre Forza Italia, Area Popolare e Sinistra Italiana chiedono un'armonizzazione dei due sistemi delle due Camere, e quindi ci dovrà essere probabilmente un passaggio parlamentare. E su questo vorrei sentire Grasso, che è il Presidente del Senato, che cosa ha detto ieri. Il Parlamento si deve pronunciare, certamente, possono essere modifiche brevi, modifiche di breve termine, di breve termine, possono essere modifiche che chiedono più tempo, comunque io sono convinto che ci debba essere un testo parlamentare su cui le parti, i gruppi, i partiti devono concordare. Cara Barbara, sì. Quindi al di là di questo, insomma, che vediamo se si metteranno d'accordo, se dovrà chissà mai intervenire normalmente la magistratura, non so come, però diciamo intanto in attesa delle motivazioni, già tu dicevi nei giorni scorsi attendiamo le motivazioni, è partita la campagna elettorale, perché Renzi domani sabato 28 gennaio sarà alle 18 a Rimini all'Assemblea Nazionale degli Amministratori Locali, e tra l'altro dovrebbe pubblicare a breve un libro e ha già rilanciato un suo blog, no? Con questo slogan del futuro che a volte ritorna. E poi Fratelli d'Italia, sempre domani sabato, scendono in piazza a Roma alle 15.30 per chiedere il voto subito. Quindi c'è chi vuole votare subito, c'è chi è incerto, c'è chi temporeggia. Berlusconi, per esempio, mi pare che attenda la sentenza da Strasburgo, no? Che ha fatto questo ricorso. Allora, secondo me la cosa più semplice, anche per far capire, sì, è sempre una questione di convenienze. Io insisto appunto su questo, quello perché il mondo a chi si muove conviene sugli interessi e sulle convenienze. A chi conviene andare allora, subito intanto, al voto? Conviene. Allora, la cosa certa, da quello che ci dicono tutti i sondaggi, è che con questo sistema nessuno avrà la maggioranza. Infatti vedevo proprio qui un sondaggio di Demopolis, no, che sì, dice se si votasse sì, oggi con la legge elettorale uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, nessun partito avrebbe la maggioranza, e fa appunto i vari calcoli. Secondo questo sondaggio l'affluenza alle urne, se fosse del 66%, il partito più votato risulterebbe il PD col 30%, Movimento 5 Stelle 29%, Lega 13,2%, Forza Italia 11,8%, Fratelli d'Italia 4,7%, Sinistra Italiana 3,7%, AP 3,5%, più poi le altre liste eccetera eccetera. Quindi nessuno arriverebbe al 40%, no? Sì, appunto. E peraltro abbiamo anche un problema dall'altra parte, ovvero l'altra Camera che è rimasta, che è il Senato, che ha un sistema diverso. Però al di là della diversità dei sistemi, cioè noi abbiamo un sistema politico attualmente che è fatto su tre blocchi, cioè il centrodestra, peraltro diviso, perché abbiamo visto che Forza Italia e Lega non sono più, come dire, un sol corpo, ma al contrario hanno diverse prospettive, come dire, ambizioni, esigenze. Beh, sì, diciamo che ormai c'è una strategia da parte di Salvini di seguire Le Pen, Trump, quindi questo filone qui, mentre Berlusconi, anche e soprattutto dopo l'arrivo alla presidenza del Parlamento di Strasburgo, del Parlamento europeo, di Tajani, che è di Forza Italia, ha una linea più moderata da sempre, però, come dire, prima Forza Italia era il partito nel centrodestra che aveva la maggioranza schiacciante, e adesso invece gioca alla pari con la Lega, almeno sempre stando ai sondaggi. Quindi anche lì ci sono dei problemi. Però quello che vorrei dire è che anche nel sistema elettorale del Senato, quindi non solo alla Camera nessuno raggiunge il 40%, ma anche al Senato ci sono difficoltà ad avere una maggioranza. L'abbiamo già visto nelle precedenti legislature, in questa e in quella precedente, le difficoltà, ma ancor di più con la presenza di questi tre blocchi e di divisioni all'interno dei vari blocchi, all'interno per esempio del centro-sinistra, all'interno del centro-destra, che rendono difficile la governabilità. Allora uno dice, beh, allora cambiassero la legge elettorale, e qui veniamo appunto agli interessi. In tutti questi anni una legge elettorale, questa legislatura, io ricordo sempre, è nata per fare la riforma elettorale e la riforma istituzionale. Le riforme istituzionali, abbiamo visto, sono state bocciate dagli italiani. Sì. Per quanto riguarda la riforma elettorale, è passata con un voto di fiducia, cioè il governo per far passare quella legge all'Italicum ha dovuto mettere la fiducia, altrimenti anche quella non passava con il voto segreto. Perché questo? Perché l'interesse di una parte delle forze politiche che oggi presenti in Parlamento è tutto sommato quello di assicurarsi la possibilità di entrare in Parlamento. Le leggi maggioritarie, come era l'Italicum e come prima era il Porcellum, ma sono leggi che premiano i grandi partiti. Anche la legge attuale, così come è rimasto, cioè quello che abbiamo, il residuo dell'Italicum alla Camera, il residuo del Porcellum al Senato, premiano i grandi partiti. Basti pensare che al Senato è ancora più complicato che alla Camera, perché al Senato abbiamo delle soglie di sbarramento, cioè per entrare al Senato un partito deve avere almeno l'8%. Se si coalizza con altre forze, cioè se si fa una coalizione, mettiamo Lega, Forza Italia, questa coalizione deve raggiungere il 20%. Allora, se ci sono queste soglie di sbarramento così alte, è evidente che quei partiti piccoli, per esempio Fratelli d'Italia, sì, al Senato non ci sta. I centristi di Alfano ci stanno solo perché sono stati eletti quando erano ancora Forza Italia e quindi sono entrati con un partito che aveva un sostegno maggiore da parte degli elettori, altrimenti anche il partito di Alfano oggi non entrerebbe. Quindi qual è l'interesse di Alfano? Qual è l'interesse dei piccoli partiti? Certamente non quello di far sopravvivere un sistema del genere, ma certamente non quello di favorire un sistema che, come dire, dia ancora più forza ai partiti maggiori. E allora questo scontro tra piccoli e grandi inevitabilmente porta a una impossibilità di arrivare a una nuova legge elettorale. Allora potrebbero dire i nostri ascoltatori, ma allora perché Grillo e Renzi non si mettono seduti attorno a un tavolo e decidono quale legge elettorale? Perché politicamente è sconveniente per Grillo o per Renzi mettersi attorno a tavolo e decidere loro. Cioè, l'uno e l'altro, essendo i due opposti, no? Si guardano in cagnesco e vogliono mostrare al loro elettorato di non avere nulla a che fare con l'altro. E certo, e quindi non vogliono assolutamente, come dire, sporcarsi le mani in questo senso. E questa situazione di stallo difficilmente sarà risolvibile nell'arco di settimane, ma anche di mesi. Cioè, il rischio vero che noi corriamo è un altro anno di galleggiamento, magari poi avremo una legge elettorale con qualche correzione. Ad esempio, faccio un'ipotesi che scendono le soglie al Senato, quindi i piccoli partiti saranno un po' più contenti. Però non si avrà un sistema che domani garantisce la governabilità, e soprattutto quello che ormai non avremo più è un sistema che ci dice quale sarà il governo che verrà il giorno dopo le urne, cioè la famosa frase di Renzi, e che prima ancora era stata di Berlusconi, ovvero gli italiani la sera dello scrutinio sapranno chi li governerà. È impossibile in questa situazione, non è possibile. Anche il candidato premier, tutta questa storia, le primarie che abbiamo vissuto per anni, ma in realtà prendiamo un esempio. Intanto abbiamo da una parte, ad esempio, un leader che è Grillo, che però sappiamo non sarà mai il candidato premier. Dall'altra parte abbiamo Renzi, sì, sarà il candidato premier probabilmente, ma pensiamo al giorno dopo le urne. Ritorniamo alla Prima Repubblica, quando se si siederà al tavolo con Berlusconi piuttosto che con la sinistra. Insomma, le larghe intese bisogna fare. Ma non solo le larghe intese, anche un'altra ipotesi, cioè il partito minore dirà no, va bene, io ti do la maggioranza, ti do l'appoggio, però a me questo Presidente del Consiglio non mi sta bene, perché ovviamente non vuole rafforzare il partito maggiore, come avveniva ai tempi della Prima Repubblica, dove i segretari di partito erano molto più forti dei presidenti del Consiglio, che infatti cambiavano ogni 9 mesi. Allora, più che il futuro a volte ritorna, più o meno è lo slogan del blog adesso di Renzi, è il passato che ritorna. Senti, abbiamo ancora un minuto, anche se sento la sigla salire, che ci sta dando dei paletti, Barbara Fiammeri, sul caso di Roma, ne abbiamo parlato in questi giorni, adesso c'era questa ulteriore indiscrezione di stampa, secondo la quale Virginia Raggi starebbe patteggiando con i PM per evitare una pena che vada oltre 3 anni, lei però oggi ha smentito seccamente, anche minacciato querele, dice una ricostruzione fantomatica. Poi c'è questa questione dei conti romani, i revisori dei conti del Campidoglio hanno detto che il comune si trova in una situazione di equilibrio finanziario precario. In serata l'assessore al bilancio Mazzillo ha detto non è vero, è garantito, non c'è nessun rischio per la tenuta dei conti. Fa proprio un commento di un minuto, perché poi ci dobbiamo lasciare, Barbara. Ma che mi sembra che tutta questa vicenda, il problema maggiore per i 5 Stelle in questo caso sia nella divulgazione, come sempre avvenuto anche in altri casi, delle intercettazioni che fanno emergere, come dire, delle complicità, complicità anche in senso politico, intendo, non di altro tipo, che tendono a poi a dividere il Movimento 5 Stelle, e questo potrebbe avere delle conseguenze pesanti. Poi sappiamo che il 30 lunedì, no, dovrebbe essere ascoltata Virginia Raggi dai PM, e allora lì si capirà un po' come prosegue questa vicenda. Grazie Barbara Fiammeri, buon fine settimana a te. Grazie a voi. Ciao Barbara, noi ci risentiamo dopo questa piccola pausa. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Avete sentito allora il riassunto della giornata all'inizio e poi lungamente abbiamo approfondito la politica della settimana, il punto politico con tutte queste reazioni politiche e questa incertezza adesso, dopo che era tanto attesa questa decisione della Consulta sull'Italicum. Poi anche un commento sulla vicenda Raggi, abbiamo detto che però poi aspetteremo lunedì 30 per capire cosa verrà fuori da questo interrogatorio della sindaca da parte dei PM. Adesso tra poco vi ricordo i fatti principali, se non l'avete acceso puntualmente alle 21, e continuate con i vostri commenti e le vostre interazioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale poi potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Alcuni ascoltatori e ascoltatrici commentano per esempio questo sondaggio di SVG sul fatto che sia calato molto in Italia la sensibilità rispetto ai femminicidi, nonostante questo 2017 sia iniziato con molti omicidi di uomini nei confronti delle donne. SVG dice che è calato di 10 punti dall'anno scorso a quest'anno, da 82% di persone che la sentivano come un'emergenza al 72%. E questo sondaggio è stato fatto tra il 16 e il 18 gennaio. Francesco dice: temo che si stia insinuando una sorta di deleteria assuefazione, come se la triste e costante presenza di queste efferatezze le avesse rese ormai parte del paesaggio cronachistico. Purtroppo pare così, e non so se avete fatto caso che alcuni dei principali TG oggi in televisione non ne hanno minimamente fatto menzione di questo ennesimo femminicidio oggi a Parma. Laura scrive: l'impegno della politica e dei media è stato notevole perché ciò avvenisse e i risultati sono arrivati. Ed è vero che buona parte della politica è anche dell'informazione ignora questa emergenza. Adesso però passeremo a un altro tema. Vedo già qualcuno che sta scrivendo su Trump e questa veramente frenesia di attività che ha espresso in pochi giorni dal suo insediamento. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto vi ricordo le notizie principali. Conti pubblici, Gentiloni sottolinea rispetto delle regole europee ma no a manovre depressive. Bruxelles replica: aspettiamo impegni precisi. Il vertice tra Donald Trump e Theresa May: ridiamo prosperità ai nostri popoli, dichiarano il presidente americano e la prima ministra britannica, ne parleremo tra poco. Roma, la sindaca Raggi polemizza con la stampa: raccontate la verità, inventare non si fa, e smentisce sul blog di Grillo le indiscrezioni circa un suo patteggiamento preventivo con i giudici. Sul bilancio del comune pesano i dubbi dell'OREF. Il giorno della memoria, il presidente Mattarella avverte: non abbassiamo la guardia contro l'intolleranza. Russia: picchiare la moglie non sarà più reato, ha approvato un progetto di legge che depenalizza i maltrattamenti in famiglia. L'ennesimo femminicidio in Italia: Parma, lei non vuole tornare con il suo ex e lui la uccide e poi si suicida. L'emergenza in centro Italia: si dimette il vicepresidente della commissione grandi rischi, in contrasto col presidente che aveva parlato di un rischio Vaillant sulle dighe. Lavoro: nel 2016 aumento delle retribuzioni dello 0,6% al minimo da 34 anni. Cala la fiducia dei consumatori a gennaio. Per lo sport, per il tennis, Nadal e Federer in finale agli Australian Open, la sfida dei sogni domenica. Ora, dicevamo, quindi questo attivismo frenetico di Donald Trump, che veramente Renzi gli fa un baffo, bisogna dire, perché da pochissimi giorni dal suo insediamento non ha fatto che firmare decreti, prendere decisioni, annunci eccetera. Oggi ha ricevuto alla Casa Bianca la prima ministra britannica Theresa May, primo leader straniero a incontrare il neopresidente. Poi già domani parlerà al telefono con Putin, Merkel e anche con Hollande, il presidente francese. E oggi ha avuto un'ora di colloquio Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Salve, ciao. Se qualcuno ha chiamato Putin a una certa ora, non l'ha trovato sempre occupato, perché è stato un'ora col presidente messicano al telefono per parlare di questa storia del muro. Mi sembra che non ne siano venuti a capo, perché giustamente, comprensibilmente, il presidente messicano non ne vuol sapere di pagare l'estensione di questo muro, che in parte c'è, ma che Donald Trump vorrebbe rendere più lungo, più alto, più massiccio e più invalicabile, no? Sì, sicuramente così. Non ci sono, diciamo, soluzioni al momento alle differenze, alla discordia, allo scontro tra Stati Uniti e Messico, ma la telefonata ha voluto essere un segnale distensivo dopo appunto i passi falsi e l'escalation della crisi delle ore precedenti, e in questo senso il messaggio è stato coordinato quantomeno in modo efficace sia da parte del team di Trump che da parte di quello messicano. Entrambi hanno detto che quel colloquio telefonico è stato costruttivo e che quantomeno hanno deciso di non discutere pubblicamente le ovvie differenze che hanno sul problema. Sulla questione del muro. Invece oggi conferenza stampa, mi pare soddisfatti erano i volti sia il suo, di Trump, che della prima ministra britannica Theresa May, no? Hanno detto potremmo di nuovo essere guida del mondo e daremo prosperità ai nostri popoli. Sì, questo è stato un altro così messaggio, se si vuole, di normalità da parte di Trump, dopo appunto un inizio abbastanza burrascoso che, come dicevi tu, ha mischiato l'attivismo ma anche a una serie di prese di posizioni e decisioni provocatorie o comunque che hanno innervosito sia all'interno negli Stati Uniti che all'esterno i partner e gli alleati, oltre che gli avversari. Quindi questo summit con Theresa May, il primo vertice così internazionale del presidente da presidente eletto, vertice formale, ha diciamo cercato di far rientrare le eccessive polemiche e i toni sono stati sicuramente più controllati, forse anche grazie diciamo così alla presenza proprio del leader britannico Theresa May. Ecco, chiaramente i paragoni storici sono probabilmente così ingenerosi: Roosevelt, Churchill, Reagan. L'accolta però con un busto di Churchill sulla sua scrivania, no? Mi sembra. Esatto, forse era meglio evitarlo. Comunque, no. Dice... i paralleli sono un po' forse troppo ambiziosi. Ci provano però. Sicuramente però. Entrambi i leader hanno espresso una volontà di stringere i rapporti, in particolare anche in vista dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, dal Brexit. Brexit, sì, che ha detto è una cosa grandiosa, ha detto Trump. Esatto, dove forse Trump ha più alzato i toni, ecco lì forse si è un po' più lasciato andare al vecchio Trump, cioè quello di ieri. Senti, a proposito di quello di ieri, oggi è tornato a dire: io credo nella tortura, ma lascerò che il segretario di difesa decida lui se è efficace o meno. E poi ha dato pieno sostegno oggi alla marcia contro l'aborto. Queste diciamo chiaramente altre posizioni diciamo controverse, anche se alla fine forse più prevedibili. Sulla tortura ha cercato di cavalcare così una distinzione tra quella che è la sua opinione personale, cioè che ha confermato, cioè lui ritiene che la tortura sia efficace nonostante gli stessi vertici militari da tempo ormai dicano chiaramente all'unisono che non oltre a essere immorale e illegale è anche inefficace, ma lui ha continuato a ripetere che è efficace, ma ha chiarito subito dopo che appunto la diciamo così delegherà la decisione comunque a chi di competenza, e cioè al ministro della difesa James Mattis, che si sa che è contrario a qualunque uso della tortura. La questione dell'aborto è stata forse la più prevedibile di tutte, nel senso che Trump aveva già cavalcato l'opposizione all'aborto durante la campagna elettorale per raccogliere il sostegno delle correnti più conservatrici del Partito Repubblicano, se da sempre contrario all'aborto, quindi ha dato il suo appoggio a questa marcia per la vita, tra virgolette, che si è tenuta a Washington, dopo che già nei giorni scorsi aveva comunque firmato provvedimenti tipici dei presidenti repubblicani, e cioè l'eliminazione di fondi federali a qualunque organizzazione che promuova l'aborto all'estero. Grazie Marco Valsani, al prossimo appuntamento con Trump allora, che abbiamo visto. Grazie. Domani parlerà con Putin, Merkel, Hollande, quindi ce ne sarà da raccontare nei prossimi giorni. Grazie Marco Valsani da New York. Adesso viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, i vostri messaggi vedo già su questa questione ultima di cui abbiamo parlato per quanto riguarda Trump. Francesco dice: ma è un errore che si commette spesso di valutare la realtà americana secondo il metro di giudizio italiano. Questi sono aspetti tipo quello dell'aborto da contestualizzare nella temperie locale strettamente legata alla religione. Inoltre si tratta di profili interessanti più per gli osservatori italiani che per i cittadini statunitensi, dice, più attenti piuttosto a economia e politica estera. Chiara dice: si tornerà a fare come si faceva prima, gli aborti continueranno tanto quanto, ma gli abbienti lo faranno privatamente, le poveracce rischieranno la vita con le mammane o facendo da sole. Adesso tra pochissimo c'è lo spazio europeo, vi ricordo però brevemente quali sono le notizie più importanti. Questo tira e molla sempre tra Italia e Unione Europea sui conti pubblici. Gentiloni dice: rispetteremo le regole però senza manovre depressive, e Padoan dice: sarebbe un problema la procedura di infrazione, quindi cercheremo di evitarla. Raggi, la sindaca Raggi verrà ascoltata lunedì dai PM e smentisce che abbia fatto qualche patteggiamento con i magistrati per evitare una pena oltre i 3 anni. E poi passo indietro di Trump sulla tortura: prima aveva detto sono favorevole, però adesso dice decide il segretario alla difesa, e oggi ha incontrato la prima ministra britannica May dicendo appunto possiamo dare di nuovo prosperità ai nostri popoli. Domani ci sarà la telefonata con Putin e con Merkel, intanto oggi ha parlato col presidente messicano del muro, ma restano le divisioni. Europa. Europa 24 notte. E per l'Europa parliamo di questa proposta per migliorare la situazione dei minori contesi nei vari paesi. Stanno aumentando in modo vertiginoso i numeri sulle dispute europee sull'affido dei figli, come aumentano i numeri delle famiglie internazionali. Hanno infatti raggiunto i 16 milioni di casi. La legislazione europea perciò deve aggiornarsi e la Commissione ha presentato un miglioramento della legislazione europea per potenziare la tutela dei minori nelle dispute appunto sull'affidamento dei figli nelle cause di separazione e divorzio delle coppie transfrontaliere. La proposta ha due punti fondamentali. Vuole aumentare la cooperazione giudiziaria tra i paesi coinvolti, sia in fase di dibattimento sia nell'esecuzione delle sentenze, ma prevede anche che i giudici debbano ascoltare i minori coinvolti prima di prendere la decisione sull'affidamento. Dal 2003 è operante il regolamento Bruxelles 2 bis, che istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia applicato a tutti i paesi dell'Unione Europea ad eccezione della Danimarca e riconosce la validità delle sentenze di affidamento di minori in tutti gli stati dell'Unione. Ma ci sono ancora delle differenze e lo scopo delle nuove regole è uniformare la legislazione dei paesi membri per evitare contrasti giurisprudenziali. Sentiamo come potrebbero intervenire sul regime attuale, sulle sue criticità, tempi e dislivelli tra regole di diversi paesi europei, le nuove regole proposte dalla Commissione. Come spiega l'avvocato Alessandro Simeone, esperto di diritto di famiglia nazionale ed europeo e componente della giunta AIAF Avvocati Italiani di Famiglia. I punti critici sono quelli del regolamento europeo 2201 che è entrato in vigore nel 2003. Dopo 13 anni la Commissione ha fatto il punto sull'applicazione del regolamento verificando quali sono le criticità. Criticità che sono ben indicate nella relazione a cui facevate prima riferimento. Innanzitutto c'è bisogno di una maggiore omogeneità all'interno degli strumenti processuali di ogni singolo paese. Secondo, occorrerà agire anche sul coordinamento e sulla velocità, perché il regolamento attuale dal punto di vista dell'individuazione del giudice che deve decidere sull'affidamento dei minori in presenza di genitori che abbiano nazionalità o residenze differenti è sempre una situazione molto molto complicata. Oltretutto noi siamo all'interno di uno spazio giuridico europeo dove non sempre i tempi sono omogenei, probabilmente l'Italia è più lenta rispetto alla Francia o magari più veloce rispetto alla Spagna. In ogni caso, per le nuove regole europee e nazionali in tema di minori contesi, il faro è il superiore interesse del minore, che deve prevalere ed essere tenuto in conto per primo rispetto agli interessi dei genitori e di quelli generati nella fase della separazione, come spiega Valeria Lavia, psicologa e psicoterapeuta specialista in questi temi. Nei casi di minori contesi il principio è che il minore deve avere una tutela dei propri diritti perché è considerato un soggetto giuridico. Vuol dire che l'ascolto è un diritto del minore, che deve sapere che può esprimere le proprie opinioni, può esprimere il proprio indirizzo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ho ancora i vostri messaggi, poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, alla quale potete aderire senza indugio, e sui messaggi al 349-238-6666, per esempio questo esercizio di fantapolitica, dice un ascoltatore o ascoltatrice: vi immaginate se Trump fosse stato eletto al tempo della Baia dei Porci o fosse stato in carica l'11 settembre 2001, mentre Annalisa da Roma scrive: non posso credere che gli americani abbiano votato un personaggio così inquietante. Adesso però non ci inquieti il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, ne è vero Paolo? Buonasera, faccio il possibile, mettiamola così. Impegnati, comunque sì. Non ho brutte notizie, dai, tutto sommato, anche se non sarà un weekend tranquillissimo. In alcune zone ancora rischiamo delle piogge, in particolare domani in Liguria, Sardegna e Sicilia, però fortunatamente nulla a che vedere con i forti acquazzoni di una settimana fa, e poi domenica il tutto si sposta verso le regioni meridionali peninsulari. Però in gran parte d'Italia sarà un weekend solo con un po' di nuvole, senza piogge, soprattutto sulle regioni del Medio Adriatico non prevediamo precipitazioni, e tra l'altro domenica sarebbe il primo dei giorni della merla, però proprio da domenica temperature in lieve rialzo, quindi anche il gran freddo degli ultimi giorni un pochettino ce lo lasciamo dietro, quindi dovrebbe finire tutto abbastanza lì. I giorni della merla, che lo ricordiamo, sono esattamente il 31, mi pare. 29, 30, 31, gli ultimi tre giorni di gennaio, ma quest'anno non sarà rispettata la tradizione perché appunto non avremo temperature così basse. E non nascondo la mia contentezza, diciamo. Senti Paolo, proprio in chiusura, la parte martoriata dell'Italia, certo, in questo particolare il centro Italia, dove ha tanto nevicato e terremoti, eccetera, il tempo anche lì quindi sarà un po' più clemente? Va migliorando, ma tra l'altro ti dirò di più, anche settimana prossima da quelle parti non prevediamo grandi perturbazioni, quindi per un po' davvero si può tirare il fiato. Grazie Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti, grazie. Ciao Paolo. E direi che a questo punto noi ci lasciamo, poi ci riaggiorniamo brevemente alle 22.